GR24, il sole 24 ore. Deve ai casalesi la sua fortuna politica, così l'ordinanza dei giudici che accusano Cosentino. Lui: non mi dimetto. Giustizia, oggi in Senato la legge per il processo breve e alla Camera governo battuto sulla finanziaria. Chiama Alleanza per l'Italia, il movimento politico fondato da Rutelli, presentato oggi. Uniremo riformisti e liberali. Cucchi, sono due i testimoni che accusano gli agenti della polizia penitenziaria, e a Parma un altro caso, morto in carcere, un 32enne. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, benvenuti a questa edizione di GR24. Il sottosegretario Nicola Cosentino, accusato dai giudici di Napoli di concorso esterno in associazione camorristica, dovrebbe ai casalesi la sua fortuna politica. E questo uno dei passaggi dell'ordinanza con la richiesta di arresto emessa dalla procura e resa nota oggi. Dettagli nel servizio. Contribuiva a rafforzare vertici e attività dei clan Bidognetti e Schiavone, dai quali riceveva il sostegno elettorale. E quanto si legge in una delle 351 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del sottosegretario all'economia Nicola Cosentino, accusato di concorso esterno in associazione camorristica. Inoltre, si legge ancora nelle carte, avrebbe garantito il permanere dei rapporti tra imprenditori in odore di mafia e amministrazioni pubbliche. L'ordinanza è stata trasmessa alla Camera per l'autorizzazione a procedere, che mercoledì prossimo ascolterà Cosentino. Non mi dimetto, dice il diretto interessato, non intendo rinunciare a nulla. L'inchiesta si basa sulle rivelazioni di sei collaboratori di giustizia, tra i quali assume un ruolo centrale Gaetano Vassallo, imprenditore legato al clan Bidognetti. Dalle sue dichiarazioni spuntano anche i nomi dei parlamentari Bocchino e Landolfi. In particolare Vassallo ha rivelato quanto gli avrebbe raccontato il boss Raffaele Bidognetti, secondo cui gli onorevoli Cosentino, Landolfi, Bocchino e Coronella facevano parte del tessuto camorristico. Immediate le reazioni. Il vice capogruppo del PDL alla Camera, Bocchino, afferma che la citazione del suo nome è solo un fatto incidentale. Più duro il commento di Landolfi, il quale definisce Vassallo un farabutto che dice solo falsità. Enzo Danna, GR24, il sole 24 ore, Napoli. E queste dunque le accuse della procura al sottosegretario Nicola Cosentino. A questo era dedicato anche il nostro sondaggio di oggi. Vi chiedevamo: si deve dimettere? Queste le vostre risposte. A da passà nuttata. Così il sottosegretario all'economia Cosentino, accusato di essere il referente dei camorristi casalesi, avrebbe commentato la bufera giudiziaria che l'ha coinvolto. La procura di Napoli ne chiede l'arresto, deciderà il Parlamento ed è pressoché scontato il rifiuto, ma intanto Cosentino fa capire che vuole tenere duro al suo posto. Secondo l'84% dei nostri ascoltatori invece dovrebbe dimettersi. È il risultato del nostro sondaggio di oggi. È prudente Raffaele Cantone, oggi magistrato di Cassazione, una vita spesa nella lotta ai casalesi. Io credo che sulle valutazioni e dichiarazioni dei collaboratori bisogna avere grandissima attenzione. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sono prova, sono un momento investigativo di inizio dell'attività e che richiedono riscontri molto approfonditi. Bianco Nero torna domattina alle 8:30 per votare. Radio24.it. Alessandro Milan, GR24, il sole 24 ore. E continuiamo a parlare di giustizia, perché dopo l'incontro chiarificatore di ieri tra Fini e Berlusconi, l'iter per l'annunciata riforma della giustizia prende il via. Allora sentiamo le novità con Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno. La maggioranza accelera dunque sul capitolo giustizia. Il compromesso raggiunto ieri tra Berlusconi e Fini sul processo breve sarebbe già stato messo nero su bianco e dovrebbe arrivare oggi al Senato. Lo hanno anticipato prima il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Bonaiuti, poco fa il vicepresidente dei deputati del Popolo della Libertà Italo Bocchino. Ascoltiamo le sue parole. Dovrebbe essere presentato oggi al Senato il progetto di legge che rivede i giusti termini per la durata dei processi, soltanto per gli incensurati e per alcune fattispecie di reato. Questo è il risultato del colloquio di ieri tra Fini e Berlusconi, che anche grazie alla mediazione del sottosegretario Letta ha portato a questa soluzione che può soddisfare sia Berlusconi sia Presidente della Camera. La maggioranza apre intanto all'opposizione sulla riforma della giustizia. Il ministro Matteoli dice: la questione non riguarda la persona di Berlusconi, ma tutti quegli italiani che hanno la sfortuna di incappare in problemi giudiziari. Dall'Italia dei Valori Di Pietro però replica: non si può per il beneficio di uno distruggere il sistema della giustizia e la certezza del diritto nel nostro paese. Mano tesa infine dal centrodestra anche all'Associazione Nazionale Magistrati. Nel pomeriggio la consulta del PDL dovrebbe incontrare i vertici dell'ANM. Da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, e aggiornamenti ci sono anche per quel che riguarda uno dei procedimenti giudiziari nei quali è coinvolto Berlusconi. Sono state infatti depositate le motivazioni della sentenza d'appello del processo Mills. L'avvocato inglese è stato condannato dai giudici della seconda sezione penale della Corte di Milano per corruzione in atti giudiziari susseguente e non antecedente alle testimonianze ritenute false e reticenti che rese nell'intento di favorire Silvio Berlusconi. L'accordo illecito tra Mills e un emissario di Berlusconi infatti si concluse alla fine del 1999, dunque non prima ma dopo le testimonianze rese da Mills nei processi Oliberian e Arces. Al legale inglese, secondo i giudici, il compenso di $600,000 venne promesso nell'autunno del 99. E invece sul fronte politico c'è da registrare che il governo è stato battuto due volte alla Camera oggi sul voto relativo a due emendamenti alla legge finanziaria. E sempre per quanto riguarda la politica, oggi, dopo l'annunciato addio al Partito Democratico, Francesco Rutelli ha presentato il suo movimento che vuole unire riformisti e liberali. Sentiamo. Si chiama Alleanza per l'Italia e celebrerà la prima convention a Parma l'11 e 12 dicembre. Il progetto di un movimento centrista con un occhio a sinistra annunciato da Francesco Rutelli comincia a prendere forma. Oggi il presidente trentino Lorenzo Dell'Ai, che insieme all'ex sindaco di Roma e al parlamentare Bruno Tabacci è il principale architetto della nuova creatura politica, ne ha presentato nome e simbolo. Alla pattuglia di parlamentari neocentristi che in prospettiva potrebbe arrivare alla Camera ai 20 necessari per costituirsi in gruppo autonomo, si sono aggregati Linda Lanzillotta, Gianni Vernetti, Cristina De Luca e Massimo Calearo dal PD, Pino Pisicchio in arrivo dall'Italia dei Valori, mentre Giorgio La Malfa ha detto di sperare di riuscire a trascinare l'intera pattuglia dei Repubblicani. In transatlantico si vocifera anche di un possibile matrimonio con i radicali che consentirebbe a Rutelli, già campione dell'area Teodem nel PD, di dare al proprio movimento un'identità meno marcata sul fronte cattolico, confermando il sogno di un Kadima all'italiana. Oggi Rutelli ha spiegato che il PD è andato a sinistra e che il nuovo movimento raccoglierà democratici, riformisti e liberali. Poi sul rapporto con Casini ha aggiunto: ci sarà una collaborazione molto presto. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora alcune notizie economiche per la Commissione europea. Il 2012 è la scadenza adeguata entro la quale l'Italia deve riportare il proprio deficit sotto la soglia del 3%, tenendo conto anche del debito pubblico molto elevato e degli interessi da pagare, quanto si legge in una nota dell'esecutivo europeo che oggi ha adottato una raccomandazione nei confronti del nostro Paese. Adesso volgiamo lo sguardo ai mercati perché era giornata di trimestrali, a cominciare da Unicredit. Buongiorno Deborah Rosciani. Sì, buongiorno Alessio, buongiorno agli ascoltatori. Unicredit ha chiuso i primi 9 mesi di quest'anno con un utile netto di 1 miliardo e 330 milioni di euro, in calo del 62% rispetto ai 3 miliardi e mezzo dello stesso periodo dello scorso anno. L'accoglienza rispetto a questi dati da parte della borsa questa mattina era positiva, poi si è raffreddata. In ogni caso sembrano risultati in linea con il consensus di mercato. Sono invece particolarmente apprezzati i risultati trimestrali di Campari, il titolo schizza del 6,5%, di Mediaset più 4,26, di Intesa che li ha pubblicati ieri più 2,97%, e anche per un'altra banca in difficoltà da un anno, ING in Olanda, conti pubblicati questa mattina e forte apprezzamento da parte del mercato. La banca comunque ha avviato un enorme piano di riorganizzazione. È una giornata positiva per la borsa, il FTSE MIB guadagna l'1,59% a Piazza Affari. È una giornata di nuovi record per l'oro che è arrivato a $1,120 l'oncia. È tutto. Grazie Deborah Rosciani, vi ricordo che da oggi in edicola il manuale per le imprese edito dal Sole 24 Ore, una guida per affrontare la crisi in questo periodo. E siamo alla cronaca. Stefano Cucchi sarebbe stato picchiato da almeno due agenti di polizia penitenziaria mentre era nella cella del Palazzo di Giustizia di Roma in attesa del processo per direttissima. È la testimonianza, secondo quanto riferiscono alcuni quotidiani, resa ai magistrati da un immigrato clandestino di 31 anni arrestato il 15 ottobre per stupefacenti, quindi il giorno prima dell'arresto di Stefano Cucchi. Sarebbe lui il testimone che il 3 novembre ha raccontato al pubblico ministero Vincenzo Barba il pestaggio di Stefano. Secondo il racconto dell'avvocato del detenuto, l'avvocato Francesco Olivieri, il 16 ottobre, allarmato dalle grida che provenivano dalla cella di Cucchi a fianco alla sua, si sarebbe affacciato dallo spioncino assistendo al pestaggio dei due agenti. E a Parma una madre denuncia un altro caso di un ragazzo morto in carcere dopo appena un giorno di detenzione. Sono attesi nei prossimi giorni i risultati dell'autopsia effettuata sul corpo di Giuseppe Saladino. Il 32enne è morto nella notte fra il 6 e 7 ottobre scorsi nella cella del carcere di Parma, dove era rinchiuso da meno di un giorno. Quello stesso pomeriggio era stato fermato perché sorpreso a passeggiare nonostante la condanna che doveva scontare ai domiciliari. Un anno e due mesi per furto con scasso aveva svuotato alcuni parchimetri. L'autopsia è stata disposta dalla Procura di Parma, che ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo, al momento contro ignoti. Voglio giustizia, mi devono dire cosa è successo, mio figlio in carcere è entrato sano, continua a ripetere la madre, Rosa Martorana. Il giovane aveva problemi di tossicodipendenza, era in cura presso il SERT di Parma e nei mesi scorsi era stato ricoverato per scompensi psichici. Alla madre il direttore del carcere ha parlato di un arresto cardiaco. Nel verbale consegnatole nella perquisizione il giorno dopo la morte si legge decesso per assunzione di stupefacenti. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di cinema, perché da venerdì esce un film di quelli che promettono di scioccare e spaventare il pubblico, come se la realtà non offrisse già purtroppo sufficienti spunti. Nella pellicola crolla la statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, si aprono voragini a Manhattan e scompare addirittura San Pietro, ma forse è solo un modo per esorcizzare? Sentiamo. Siete già stati impressionati da The Day After Tomorrow, Independence Day, Godzilla? Ebbene, il regista tedesco Roland Emmerich colpisce ancora. Le vittime si attenevano al calendario Maya, che ha predetto la fine dei tempi per il 21 dicembre del 2012. Avete presente questa profezia Maya? Ebbene, in 2012 accade esattamente così. I Maya lo sapevano. La Bibbia è la fine del mondo, amici miei. The Mayan prophecy, you know, we discovered actually why. Abbiamo scoperto l'esistenza della profezia quando già avevamo scritto la storia per sommi capi, spiega Emmerich. C'è il lato oscuro dei potenti del mondo che conoscono la notizia ma la tengono nascosta per non creare panico e poter usufruire delle enormi arche che dovrebbero salvarli. Il presidente nero degli Stati Uniti cede il suo biglietto a un giovane scienziato. L'unico altro potente a scegliere di morire è il premier italiano, che mentre crolla San Pietro sui fedeli preferisce restare con loro a pregare. Ma il catastrofista Emmerich e lui cosa fa per prepararsi al 2012? Nothing really, because I hope this will not happen. Niente, confessa candidamente, perché spero che non succeda proprio nulla. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Seconda parte di GR24. Nella prima ci siamo occupati di giustizia, siamo partiti dalla motivazione della sentenza d'appello al processo Mills, l'avvocato inglese che sarebbe stato corrotto però dopo avere testimoniato nei processi che riguardavano Berlusconi. Poi al Senato, dove oggi arriva la legge per il processo breve, invece alla Camera il governo è stato battuto sulla finanziaria. Abbiamo guardato anche nell'ordinanza emessa dalla Procura di Napoli su Nicola Cosentino, il sottosegretario all'economia, coordinatore del PDL in Campania, che dovrebbe ai casalesi, secondo i giudici, la sua fortuna politica. E poi per la cronaca, un nuovo caso Cucchi che sarebbe scoppiato, questa volta a Parma, dove è morto in carcere dopo un solo giorno di detenzione un ragazzo di soli 32 anni. Adesso le altre notizie, a cominciare dalle stime economiche di Confcommercio. Eh sì, perché migliorano le stime sulla ripresa del PIL, o quantomeno sul minor calo del PIL quest'anno e sui consumi. Sentiamo le stime di Confcommercio. Previsioni fra le più ottimistiche. Secondo Confcommercio, il PIL italiano potrebbe chiudere il 2009 a meno 4,6% e registrare una crescita dello 0,7% nel 2010. Per i consumi, il calo previsto nel 2009 è dell'1,8%, stime in rialzo rispetto a luglio. Ma attenzione, se è vero che il peggio è passato, secondo il presidente di Confcommercio Sangalli, è altrettanto vero che la ripresa non è stabile e vigorosa, dunque bisogna mettere in campo misure a sostegno della domanda e dei consumi. Noi indichiamo come prioritaria la riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro, un primo atto per rendere proprio tonica questa ripresa, la detassazione parziale e selettiva delle tredicesime, cioè una detassazione rivolta soprattutto ai redditi medio-bassi. Nel 2009, inoltre, denuncia la Confederazione, ci saranno 20.000 negozi in meno, il che significa 108.000 posti di lavoro in meno a fine 2009 e una perdita di 156.000 posti di lavoro tra il 2009 e il 2010. Chiara Di Michele, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso le dichiarazioni del segretario della CGIL, Guglielmo Epifani, che ha detto di apprezzare le affermazioni del ministro dell'economia, Giulio Tremonti, sulla necessità di non riformare ulteriormente le pensioni. Epifani però ha chiesto l'apertura di un tavolo di discussione per il sistema pensioni più in generale. Poi Epifani è intervenuto anche su quanto avvenuto ieri alla Eutelia, il blitz dei vigilantes nell'azienda occupata dai dipendenti che temono per il loro futuro. Sentiamo. Quella è un'occupazione, sono lavoratori disperati che cercano di difendere il lavoro, sono anche lavoratori di altissima professionalità, Eutelia è una società di informatica, e non vedono chiaro nella proprietà, non vedono chiaro nei disegni industriali, non sono pagati da mesi, non è stato versato il TFR da mesi, non sono stati versati i contributi al fondo integrativo da mesi. Non hanno nessuna prospettiva per il futuro, chiedono chiarezza e chiedono rispetto. Ora che di fronte a una forma pacifica di protesta si usino irruzioni di questo tipo, che come ho detto mi sembrano più da società o Stato sudamericano, è una cosa che non... E le proteste dilagano un po' in tutta Italia, sono saliti sul tetto della loro azienda con tende, sacchi a pelo e qualcosa da mangiare, convinti di restare sino a che l'azienda non riveda l'ipotesi della mobilità per 8 lavoratori. È questa la storia degli operai della Sitcar di Modena. Cristina Carpinelli ha raggiunto al telefono Mino, uno dei 6 lavoratori che da ieri notte sono sul tetto di questa azienda. Abbiamo preso con i miei colleghi di salire sul tetto perché praticamente è una cosa che va avanti da mesi, dalla cassa integrazione che praticamente ci hanno fatto fare, di cui il lavoro comunque c'è e c'è sempre stato, e abbiamo comunque delle foto che l'azienda nel momento in cui eravamo in cassa integrazione dava del lavoro fuori, nell'altra azienda a Modena, poi è nata quest'altra azienda in Cecoslovacchia, quindi il lavoro praticamente in azienda c'è, solo che non si capisce perché praticamente ci vuole mettere in mobilità queste 9 persone. Voi siete sul tetto, come siete sul tetto? Ce lo racconti, perché noi non vi stiamo vedendo, per cui non sappiamo cosa avete, come siete saliti sul tetto e come state lì sul tetto? Siamo venuti ieri mattina alle 6 sotto molta pioggia, siamo saliti da una scala che c'è nel di dietro del capannone dove è accessibile e siamo saliti su. E poi abbiamo montato su 2 tende dove ci siamo riparati per la notte con qualche coperta. Siamo saliti sul tetto perché vogliamo rimanerci finché la trattativa non abbia un fine, un esito positivo, un nero su bianco, ecco, qualcosa di scritto. Adesso un aggiornamento, una notizia appena giunta in redazione che riguarda uno dei vari filoni di inchieste giudiziarie. Siamo in Puglia, il presidente della regione Puglia, Nicky Vendola, non è indagato, a suo carico attualmente non c'è un procedimento penale, l'ha detto il procuratore di Bari Laudati, riferendosi alle notizie pubblicate oggi dal Libero, che invece anticipava qualcosa di questo genere. E adesso parliamo del vertice della FAO che si terrà a Roma tra un po' di tempo, e è stato presentato questa mattina con un'iniziativa per certi aspetti clamorosa di Jacques Diouf. Ce ne parla Maria Chiara Grandis. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Presentando a Roma il vertice FAO 2009 che inizierà lunedì, il direttore generale Jacques Diouf ha annunciato uno sciopero della fame di 24 ore a partire da sabato mattina. Diouf ha anche invitato tutti a imitarlo per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'emergenza fame nel mondo, un problema che la crisi economica ha aggravato portando a 1 miliardo il numero di persone malnutrite in 31 paesi, 20 dei quali solo in Africa. Passi avanti dal primo vertice ne sono stati fatti, ne è un esempio il Brasile, dice la FAO, ma tutto questo non basta per garantire la sicurezza alimentare, sono necessari 44 miliardi di dollari l'anno da investire nell'agricoltura per aumentare la produzione con sistemi di irrigazione, stoccaggio e infrastrutture, non devono mancare aiuti ai piccoli agricoltori, di tutto questo dunque si discuterà lunedì prossimo fino a mercoledì, il vertice coinvolgerà i più importanti leader internazionali ed è prevista anche la partecipazione di Papa Benedetto XVI. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie dunque anche a Maria Chiara Grandis per questi aggiornamenti sul prossimo vertice FAO che si svolgerà a Roma. Siamo allo sport, parliamo di calcio, secondo giorno di lavoro a Roma per gli azzurri di Lippi. Domani tutto il gruppo vivrà una giornata particolare all'Aquila, dove si allenerà e visiterà luoghi e popolazioni colpiti dal terremoto del 6 aprile scorso. L'Italia si prepara in vista della sfida contro l'Olanda di sabato. Sabato si affronteranno in amichevole anche Spagna ed Argentina. E dall'Argentina arriva una storia che può apparire incredibile. Si parla di una alleanza tra il governo di Buenos Aires e i gruppi di ultra. Sentiamo. Stadi senza violenza e manifestazioni di piazza in sostegno alla presidente Kirchner. Li garantiscono le frange più estreme del tifo di 12 squadre argentine che si schierano al fianco del governo. Un accordo sottobanco, smentito dal ministro degli interni, ma confermato dagli eloquenti striscioni apparsi in tutti gli stadi. In cambio, la ricca famiglia che da anni guida il paese, prima con il marito Néstor Kirchner, ora con la moglie Cristina, pagherà ai capi tifosi 280 pacchetti viaggio, volo e hotel compresi, per vedere la nazionale di Maradona ai mondiali in Sudafrica. Il rapporto tra ultra e potere nel paese è sempre stato molto stretto, come ci racconta il giornalista e scrittore argentino Ruben Oliva. Si chiamano in Argentina Barras Bravas, sono gruppi molto violenti che da sempre sono stati usati dalla politica e non solo. Cioè, questi gruppi qua sono dei veri e propri servizi d'ordine che servono per fare pressing in qualsiasi situazione. Il governo ha la impunità, nel senso che tu fai quello ma non vai in galera. C'è stato uno dei capi 3 giorni fa di questi gruppi, chiamato alla giustizia, che è entrato come inquisito, uscito libero da ogni cargo. Ai Kirchner l'appoggio degli ultra serve, e parecchio, anche in vista della campagna elettorale per le presidenziali del 2011, chiunque si candidi, la moglie o il marito. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora un appuntamento che vi vogliamo presentare, il potere a tutti i peccati. Con questo titolo si apre infatti oggi, l'11 di novembre, a Milano, la stagione del Teatro Noma Teresa Pomodoro, una onlus da quest'anno coordinata da Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano, un teatro civile che parte dai peccati capitali, come anticipa la stessa Pomodoro al microfono di Raffaella Calandra. Il potere è parola ambigua, che può significare sopraffazione sull'uomo, ma può significare anche il potere e la potenza delle idee e dell'utopia. E noi vogliamo che sia quest'ultima parte che prevalga sulla prima. Noi cercheremo di, con ironia, con allegria, attraverso le tante esplicazioni, performance musicali, teatrali di prosa, cercheremo di ragionare sui peccati del mondo, cominceremo dai 7 peccati capitali e poi andremo avanti cercando di immaginare i guasti del potere. Il titolo stesso della stagione fa subito venire in mente la cronaca. Io le risponderei semplicemente dicendole che, per esempio, i vizi capitali venivano chiamati dagli antichi e dai classici gli abiti del male, e questi sono sempre esistiti e fanno sempre parte della storia dell'umanità. È tutto per questa edizione di GR24. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi. La vita fa tic tac, il ritmo fa tic tac, accendi il ritmo della vita con tic tac. Quando il freddo diventa pungente, fatti accarezzare dalla dolcezza con tic tac ai gusti eucalipto e miele ed erbe alpine e miele. Una coccola per la tua gola. Lo senti il gusto così fresco di tic tac. Facciamo la macchina della verità. Sabrina Ferilli. I sofà di Poltrone Sofà sono i tuoi preferiti? Ma certo! E oggi sei qui perché c'è... la collezione Sofession a metà prezzo. Vero. Il sofà Dragoncello a 690 euro invece di 1380. Che sono matti! Sì, c'è anche il divano Vita in vera pelle a soli 990 euro. Che ne pensi? Beato Duortegui Sofà. Il sofà. Però affrettatevi. Il metà prezzo termina domenica. Poltrone Sofà. Benvenuto in un mondo tutto tuo. Numero verde 800 900 600. 1, 2, 3. Cara, scusa, cosa fai? Conto le pecore per riprendere sonno. Prova Armonia Retard di Natura. Conterai le ore di riposo. È melatonina pura a rilascio controllato per un sonno duraturo. Armonia Retard di Natura. 3, 2, 1, corro in farmacia. Assicurazioni, ce ne sono tante. Quelle che danno il meglio per due mesi, quelle che risponde sempre Guido e anche quelle con i superpoteri. Io ho scelto Dialogo, perché volevo un RC auto semplice, economica e con un ottimo servizio. Facile, no? Chiama l'800 33 1166 o vai su dialogo.it. Dialogo, dove tu vali di più. Vodafone Partita IVA, sono Iva. Buongiorno, dottor Zamboni. Iva, ma allora è vero. Cosa? Da tre bollette a bimestre e ora ho un unico conto telefonico per cellulare, fisso e ADSL. Vodafone le offre un servizio unico. Iva, senza di lei non potrei vivere. Ci credo, lei è un commercialista. Per te che hai un'attività, con Vodafone Partita IVA hai cellulare, telefono fisso e ADSL con un unico operatore, un unico conto telefonico e un servizio clienti dedicato che ti riconosce per nome e risponde subito a tutte le tue richieste. Vieni su Vodafone.it o chiama l'800 127 777. Vodafone. Nel silenzio scorre il tempo, amico. L'una dopo l'una. Ecco, il tempo è giunto. Dalle piccole botti di legni pregiati, le prime gocce per il mastro distillatore. Sì, ecco le 18 lune. Grappa le 18 lune di Marzagro. L'arte di saper aspettare. X-Match, gli ETF di Credit Suisse. Vi presenta Borse in diretta. Una serie di trimestrali positive e la ripresa dei titoli del settore materie prime sostengono i listini europei a metà seduta. Piazza Affari, FTSE All Share sale dell'1,3%, il FTSE MIB dell'1,5%. Fra le blue chip milanesi corrono Campari che guadagna il 6,6% e Mediaset più 4% grazie ai conti migliori delle attese. Bene anche Mediolanum più 4%, Buzzi Unicem sempre più 4%. Che in giornata annunceranno i risultati di bilancio. Intesa San Paolo più 2,8%, conferma il trend positivo avviato ieri sulla scia della trimestrale grazie anche ai giudizi positivi degli analisti. All'estremo opposto del paniere principale Geox cede il 2,5% e continua a essere penalizzata dalla revisione a ribasso delle stime sul giro d'affari 2009. Fra i big che hanno annunciato i conti, infine poco mossa Unicredit che guadagna lo 0,1%. Infine i cambi, l'euro è tonico, viene trattato poco sopra $1.50. Da Radio Core Isabella Tasso per Radio 24, il Sole 24 Ore. 2200 euro! È questo che Arca Previdenza può farti risparmiare all'anno sulle tasse. Fai bene i tuoi conti, vai su arcaprevidenza.it. Arca SGR, più valore al tuo risparmio. Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione, leggere nota informativa e regolamento. Caro Dossi, come vanno adesso gli affari? Oh, Cavalier Benzi, ebbene, ho seguito i suoi consigli. Si è rivolto a Interprofessional Network. Ah, certo, grazie a loro ho aumentato il fatturato del 30%, aperto nuovi canali distributivi e sono entrato con profitto in nuovi mercati. Allora, brindiamo alla fine di questa brutta crisi? Interprofessional Network, le tue potenzialità, la nostra competenza. Per risultati concreti. Chissà se anche Fazzini ha seguito i miei consigli. Interprofess.it. This trust can be lost, 'cause there's one thing that I've got. Manca poco! Gli ecoincentivi 2009 stanno per scadere. Ma solo con Citroën puoi avere su tutta la gamma, sugli accessori e sui servizi, lo stesso sconto riservato ai dipendenti. Approfittane! Hai tempo solo fino al 22 novembre. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie Citroën. Vintage keyboards and dusty roads. Mi chiamo Luca, ho 40 anni e gestisco una piccola azienda. Ho bisogno di un progettista con 5 braccia, un tecnico con 3 occhi, un assistente con 30 dita. Per competere con successo basta fare di più con le risorse che hai. Facile a dirsi. Facile a farsi, con Windows 7 e Microsoft Office 2007, anche sui tuoi PC e con le tue applicazioni. Oggi con uno sconto fino al 35% sull'aggiornamento a Windows 7 e fino al 30% su Office 2007. Offerta soggetta a restrizioni. Scade il 31 dicembre 2009. Info su microsoft.it/innovare. Questi sarebbero Sofia e Marco se avessero scelto l'incertezza di un mutuo a tasso variabile. La rata è aumentata ancora. Te l'avevo detto. Questi invece sono Sofia e Marco che hanno scelto il mutuo giusto per loro grazie alla consulenza di un partner affidabile. Alla nostra nuova casa. Mutuo BNL 2 in 1, l'unico con la sicurezza del tasso fisso bloccato da subito e i vantaggi del tasso variabile di oggi per i primi 2 anni. Chiama l'800-900-900 per un appuntamento. BNL Gruppo BNP Paribas. Condizioni per la missione e fogli informativi in filiale. Bonfiglioli Consulting, il numero uno nel Lean Thinking in Italia, vi presenta... America, in the face of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Amazing grace, how sweet the sound that la voce di una donna di colore dell'esercito americano che ha chiuso ieri la struggente, dolorosa cerimonia di stacco con la partecipazione dei vertici americani dalle 13 vittime della strage di Fort Hood. È stato un grande momento di raccoglimento e, se me la passate, è anche un grande momento di americanità, quella particolare capacità di racchiudere in una atmosfera, in una serie di gesti e soprattutto in una forte sensazione psicologica la coscienza, no? di uno stato collettivo. C'è stata anche la partecipazione di Barack Obama, che ha parlato con tono severo, triste, solenne, compreso. Raramente l'abbiamo visto così calato nella grave serie del suo ruolo. It may be hard to comprehend the twisted logic that led to this tragedy, but this much we do know. No faith justifies these murderous and craven acts. No just and loving God looks upon them with favor. For what he has done, we know that the killer will be met with justice. Questa è il passaggio chiave del suo discorso, quello in cui ha riassunto anche in un certo senso la drammatica tragicità del suo ruolo, allorché deve anche ergersi a giudice in certi casi nel pieno della sua implacabilità. Ha detto: nessuna fede giustifica questi omicidi, non c'è una religione o un Dio che ne può autorizzare la vento. Sappiamo che il killer, per quello che ha fatto, incontrerà la giustizia in questo mondo e nel prossimo chissà quale sarà l'esito, facilmente immaginabile la condanna, ma poi anche il ruolo del comandante in capo dell'esercito degli Stati Uniti d'America, ovvero Obama stesso, allorché magari si avanzeranno domande di grazia nei confronti di una condanna a morte nei confronti della quale Obama si è sempre espresso in toni piuttosto decisi. Vedremo. Nel frattempo alcuni particolari arricchiscono il quadro precedente che riguarda questo maggior Nidal Malik Hassan, responsabile del folle gesto, soprattutto queste sue connessioni, queste mail che ha inviato all'imam Anwar al-Awlaki, che è strettamente connesso addirittura con alcuni dei responsabili del 11 settembre 2001. Ebbene, sembra proprio che il Pentagono abbia rivelato che i contatti tra Hassan e l'imam estremista erano conosciuti, ma che in un certo senso l'esercito non era mai stato messo a conoscenza. E da un fatto nero, da un fatto luttuoso dell'America di ieri a un altro. Perché infatti è andata in scena in questo caso invece una condanna a morte ampiamente annunciata. Sentiamo una voce da ieri. Bob, did you watch this? Yes, sir, I did. How did you feel? Honestly, it was surreal. Watching the life be sapped out of somebody intentionally was very different. È surreale vedere come si può sottrarre intenzionalmente, strumentalmente la vita a un individuo, ha detto a Larry King di CNN uno dei testimoni della condanna a morte di John Allen Muhammad, 48 anni, il cecchino delle autostrade del distretto di Columbia, che ieri ha conosciuto la propria fine davanti a una platea che ha assistito immobile e silenziosa, una platea in parte di giornalisti, ma soprattutto fatta da parenti delle vittime del suo folle gesto del 2002, quando cominciò a sparare sulle autostrade dove i pendolari tornavano a casa, a sparare a casaccio, per poi probabilmente coprire un secondo disegno che non riuscì a mettere in atto, che coinvolgeva l'assassinio della sua ex moglie e forse addirittura un complotto di carattere terroristico. Muhammad è morto a sua volta senza proferire parola, senza neanche anche tradire emozione. C'è stata una moderata protesta al di fuori dei locali del carcere della Virginia dove tutto ciò è andato in scena. Devo dire, le fotografie che potete trovare su internet che raccontano la triste serata di ieri attorno al carcere dove ciò è avvenuto sono così dense di angoscia che bastano addirittura i colori, no? Le linee, le nebbie a raccontare come anche questo sia un problema irrisolto dell'America d'oggi. Primo piano. White House Interim Communications Director Anita Dunn is going to be leaving her post. Veniamo alle cose invece della Washington, che gestisce e avanza il suo faticato cammino amministrativo in questa difficile America del 2009. Ieri ha perso un piccolo pezzo per strada, un piccolo ma significativo pezzo che risponde al nome di Anita Dunn, che si è dimessa. Anita Dunn è stata per questi mesi, brevi mesi di permanenza di Obama alla Casa Bianca, la responsabile della comunicazione. Lascia il suo posto per motivi personali al suo assistente che si chiama Dan Pfeiffer. È stata una personalità chiave nella gestione della comunicazione della Casa Bianca in questi mesi, perché soprattutto è a lei che si deve l'inizio della guerra con Fox News, e qualcuno vuole pensare che la sua dipartita sia in un certo senso vittima di questa guerra. Lei, mi sembra, conservi fino alla fine, anche per parole di Valerie Jarrett, una delle principali consulenti di Barack Obama, la piena stima della presidenza, e il suo passo indietro, il resto, era stato ampiamente annunciato fin da tempi non sospetti. There's nothing wrong with the penalty. Now, what those penalties are, Barack Obama comincia ad andare in giro a fare le sue interviste a sostegno della questione sanità, che deve passare ora al Senato. Lunga intervista ieri a ABC News con Jack Tapper, una lunga intervista in cui ha dovuto rispondere anche a domande piuttosto particolari, ad esempio che cosa succede se qualcuno da questo momento in poi rompe il patto che si potrà stabilire con il servizio sanitario e non paga semplicemente le proprie cartelle. Ha detto Obama, è un errore che va pagato nel modo giusto. Io non arrivo a parlare di galera, ma gli americani devono abituarsi. Pensate un po' a qualcuno che non paghi la sua assicurazione dell'auto. It buzzes like a friend. you get. This is what you get. This is what you get when you mess with us. Strade in diretta. Il traffico è tornato a scorrere regolare sulle principali percorrenze e resta ancora chiusa la diramazione per Fiorenzuola tra l'innesto della A21 e l'innesto con l'autosole verso quest'ultima. Il traffico viene deviato, al momento non ci sono grossi disagi in prossimità di questa chiusura. Vi ricordiamo che sulla 10 Genova-Savona tra Varazza ed Arenzano verso Genova si viaggia in una riduzione di carreggiata per uno smottamento che potrebbe interessare la sede autostradale. Si formano facilmente le code soprattutto nelle ore di maggior traffico. Per lo stesso motivo si formano code anche in uscita da Roma sulla statale 2 Cassia Bis, che è chiusa all'altezza di Formello verso Viterbo e resterà chiusa fino al 27 di novembre. Per ora è tutto, se avete segnalazioni vi invitiamo ad utilizzare il nostro numero verde 800 19 73 13. Strada in diretta ritorna tra mezz'ora. Promo 24. L'autovelox come strumento preventivo e di sicurezza. È questo il concetto su cui si basa Coyote, il nuovo localizzatore che avverte in anticipo della presenza di autovelox fissi, mobili e tutor. Coyote aiuta il conducente a mantenere l'attenzione sulla propria condotta di guida, ricordandogli i limiti di velocità che non possono essere superati e avvisandolo con dei segnali acustici per evitare ogni possibile distrazione. È un localizzatore davvero diverso da tutti, perché è l'unico che si aggiorna mentre lo si utilizza, e l'elenco dei punti critici è arricchito anche dall'esperienza diretta della community dei viaggiatori. Coyote è disponibile nelle officine Magneti Marelli Checkstar, sul sito mycoyote.net e nei migliori negozi di elettronica di consumo. Buongiorno America. This is a healthcare bill, not an abortion bill, and we're not looking to change what is a core principle. E torniamo all'intervista di Barack Obama alla ABC in difesa della corsa che sta compiendo in questi giorni il progetto di riforma della sanità e dopo il passaggio alla Camera. La questione ora dell'aborto, ha detto Barack Obama, che indietro non si torna. Questa è una legge sulla sanità, non sull'aborto, ha detto molto chiaramente, scandendo le parole, il Presidente, e che assicura così le donne d'oltreoceano che lui non è disposto a sacrificare sull'altare della riforma in questione le conquiste del passato, che si batterà per difendere la libertà di scelta. La Speaker della Camera Nancy Pelosi ha dovuto infatti ingoiare il compromesso con i repubblicani, accettando un emendamento che esclude dalla riforma qualsiasi piano di assistenza sanitaria pubblica che rimborsi le spese per l'aborto. Copertura che invece è assicurata dalle assicurazioni private. Ora nel viaggio verso il Senato e nella ulteriore discussione, come si vede, ci sono paletti messi dal Presidente su questa questione, anche perché nel frattempo sulla storia della sanità in America è sceso in campo un personaggio di tutto riguardo. First, I think that by and large I should let them say what they thought. Bill Clinton, l'uomo che non ce la fece insieme alla consorte nel 94 a far passare la propria di riforma della sanità, torna in scena su quella che evidentemente è rimasto un cono d'ombra della propria carriera politica, e sta facendo in queste ore seriamente lobby al Senato in favore di Barack Obama. Qual è la missione essenziale di Bill Clinton? È mettere il tappo, se mi passate l'espressione, attenzione al fucile dei franchi tiratori democratici, ovvero stoppare quanto più possibile il desiderio interno al Partito Democratico di non sostenere per motivi fiscali la riforma proposta da Obama. Lui, Clinton, è il grande fixer, no? Si dice il grande riparatore, quello che sa come far funzionare le cose in questa occasione, e probabilmente mai come ora il suo